Quando lasciai la mia casa nell'isola d'Elba, credevo che il mondo mi stesse aspettando per darmi una mano, per farmi un sorriso. Come un gabbiano senza ali mi sono trovata travolta dall'acqua di un mare in tempesta, e se non son morta lo devo a te. Solo l'amore e felicità.